Si possono evadere le tasse anche sfruttando eBay. Come? Vendendo prodotti su internet, senza neppure aprire una partita IVA. Tra i tanti casi, significativo quello di un commerciante che per sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie ha pensato bene di aggirare le norme sul commercio creandosi online una vetrina espositiva di prodotti che venivano immessi sul circuito di vendita eBay con modalità irregolari. Dal 2007 l'evasore tecnologico vendeva ingenti quantità di motoveicoli e ciclomotori pur non essendo titolare di partita IVA, rimanendo pertanto nascosto al fisco e sottraendosi quindi ai dovuti oneri contributivi. Un modo fin troppo semplice di fare affari frodando il fisco, fruttato all'ideatore 300.000 euro di tasse non pagate. Ci vorrebbero maggiori controlli, soprattutto virtuali. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.